la mia tana è Milano. Lucky Luciano sui beat del Kingpin. Volete guerra come Mujahideen? Ma non c'è storia come porno film. Filo d'erba in bocca, no. Accanito smocca, no. Vibra tipo Nokia. Parvati hydro, fin da sbarbati. Incendiamo l'audio, bulbi, oculari, testimoni. Devongono rimare causa di rice, ma Tommy, Dojo Milano colpi sulla sacca. Sputo sulla preda mezza dracma. Li brucio come teste di chi mangia paste più di Pac-Man. Si sappia, prendi la boccia e stappa. Cinebrio. Al canto di sirene scappa. Rap, ibridi, lasciano brividi, lividi sui visi, visi, lividi anche sui visi invisibili. Zibidi, elimina, limiti, elimino Milano, Cirano, semi, mini, minimo, mina, amico. Limine che girano a Rimini, ancora te ne do, benedico, amico. Vai, vai, come un montico, da giusto, da amico, comico, non perigo, vi tranchico, amico, perigo, dritto, vivo, dico. Chris è chiaro, caro, magu, metto bianco sul nero, troppo, coppa, malu, cool, no, full, con donne che gridano, oh, oh, come song tu, e maci che ridono, pitbull, true school, Milano, nonostante siciliano, precisamente eoliano, evidentemente italiano. Che di rima io mi intendo, so farle. Mi dicono se fatta a Parigi, one love a Harlem. Unilinguista, piacere orale, se incrocio parole, enigmista. Gli MC son freddi, innuendo. Io stile al cubo, Nintendo. La penna bastona come nel Kendo. 3-3-9, tra 7 via dicendo. Microfono, protesi delle braccia, gli rico piace. Manda fuori chi sente la traccia. Gli alzano maniche di giacca e controllano che non si faccia. In Italia, zero rap gay, non si sbaglia. Se te rap gay, le sacre saga, ti dà la paga. Apre più culi di Rocco a Praga. Cerco un assista, linda evangelista. Per questo scendo in pista, col gioielli di famiglia in vista. Come un camorrista, specialista. Sono l'amante del ballo, ma per questa notte vorrei essere della cubista. Un conquistador da discoteca, professionista. Ho l'esperienza che si conquista solo dopo anni di tripassi in lista. E si amministra con piumi di cristal e il fascino d'artista. Nulla tenente in affitto, vittimista di diritto. Con poco fra le mani, come il sottoscritto. Ho un anista. Frankie G sul beat, Lucky Guercio Luciano, D'Argenda amico, Don Joe sul mix, Milano Finest, Club Dogo, Le Sacre. Well,